Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, beh, avete sentito nei nostri GR, oggi l'Istat ha diffuso il dato, in realtà è una conferma di una stima già arrivata il 7 di agosto, eravamo in diretta e ce ne siamo occupati del, dicevo, dato sul PIL italiano nel secondo trimestre dell'anno, meno 6% rispetto a un anno prima, meno 0,5% rispetto al trimestre precedente. A questo punto il calo già acquisito, ossia se i prossimi due trimestri il PIL italiano facesse zero, non avesse segno meno, chiuderemmo l'anno con un meno 5,1%, il che porta a dire che probabilmente chiuderemo un po' peggio del 5,1%, a meno che, e questo potrebbe essere una vera sorpresa, nel terzo e quarto trimestre non si registri o una variazione zero o addirittura una variazione leggermente positiva. La cosa invece un po' più positiva, volendo cercarla, è che rispetto al trimestre precedente la nostra economia è calata, ma è rallentata la velocità del calo, ha fatto un meno 0,5%. Nel primo trimestre rispetto all'ultimo trimestre del 2008 invece il calo era stato del 2,7%. E di questo parleremo in apertura, ma anche concentrandoci sul dato che riguarda il commercio con l'estero, nel caso specifico quello fuori dall'Europa. A luglio infatti c'è stato un saldo positivo di 1,7 miliardi. Uno dice come mai? Perché le importazioni sono calate ben più delle esportazioni. Le importazioni hanno fatto un meno 35% a luglio dai paesi fuori dall'Unione Europea, mentre le nostre esportazioni hanno fatto un meno 17%. Ecco perché il saldo è positivo. Importazioni così basse in Italia non si registravano dal 1993, ma ne parleremo tra un attimo. Toccheremo anche appunto il tema del mercato del lavoro, oltre che dei dati economici sul PIL. Poi parleremo di Opel, General Motors, Magna, questa vicenda che sembra a questo punto risolta, visto che Angela Merkel, il cancelliere tedesco, ha detto l'acquirente di Opel è Magna, quindi il gruppo austro-canadese con la partecipazione dei russi, tagliando la testa al toro e quindi dando un segnale anche in vista delle elezioni tedesche di fine mese. C'era chi sosteneva invece che fino a dopo le elezioni la Merkel o comunque il governo non si sarebbe esposto sulla vicenda della Opel. Invece oggi è arrivata una nota che dovrebbe porre la parola fine a questa vicenda. Nella seconda ora parleremo di sanità, questa volta però di sanità americana. Avete letto sui giornali che Barack Obama ieri, in un discorso anche molto ispirato, chiamiamolo così, di fronte alle Camere riunite americane, ha detto, ha difeso con forza la sua riforma sanitaria, ha cercato di rassicurare gli americani che non toccherà chi già ha un'assicurazione medica, che si occuperà dei 45 milioni di americani che non hanno un'assicurazione medica, di quei 14 mila che perdono l'assicurazione ogni giorno per via della crisi economica e di chi appunto proprio per via della crisi economica ha ancora maggiori difficoltà a mettere i soldi da parte a fini assicurativi chiaramente sanitari. E una difesa molto forte, molto anche netta, chiedendo un aiuto ai repubblicani su alcuni punti migliorabili, però ha detto non ci faremo distrarre dal partito del rinvio. Tema delicatissimo anche perché questa riforma costerà 900 miliardi di dollari in 10 anni, perché c'è un contributo dello Stato americano per agevolare queste polizze assicurative, queste forme previdenziali tramite assicurazione, però Barack Obama ha fatto notare che meno di quanto è stato il vantaggio per i ricchi americani della riforma fiscale di Bush e meno di quanto è stato il costo della guerra in Iraq. Ne parleremo nella seconda ora del programma, anche ogni tanto per respirare e non concentrarsi solo sui temi di casa nostra. 349 238 6666 per i vostri sms. Le altre notizie in breve, partendo dalla borsa. Positiva, mezzo punto percentuale, Milano di rialzo, Parigi invariata, Francoforte più 0,4, Londra meno 0,3%, l'America guadagna lo 0,3 invece. L'euro è sempre forte, a quota 1,456 nei confronti del dollaro. Tra i titoli, bene oggi Mediaset più 3,5%. E ancora Ansaldo più 3,3%, Unipol più 3%, Tenaris più 2,6%, Campari più 2,3%, Fondiaria più 2,3%, anch'essa l'1,9% lo guadagna Alleanza, l'1,7% Generali, l'1,6% il rialzo di ST Microelectronics ma anche di Mondadori, 1,5% Pirelli, l'1,1% A2A, l'1% in pregiro. Realizzi su Luxottica meno 2, Buzzi Unice meno 1,6, 1,5% il calo di Autogrill e di Prismian, lo 0,90% il calo di Finmeccanica, lo 0,80% quello di Unicredit, lo 0,6% quello di Geox e Banco Popolare. Giustamente alcuni di voi ci chiedono già, ma insomma da inizio anno come sta la borsa? Sta bene, perché da inizio 2009 il FTSE MIB ha guadagnato il 17%, per cui il recupero è stato fortissimo, anche perché siamo a un più 50% quasi rispetto ai minimi toccati a marzo. Petrolio a $71,80, in America sale il deficit commerciale a luglio a 32 miliardi, più 16%, l'incremento più forte da 10 anni a questa parte. Gli analisti anche stavolta hanno cannato, si aspettavano 27 miliardi, quindi peggiora la bilancia commerciale americana. I sussidi di disoccupazione invece vanno meglio delle attese, sono calati di 26.000 unità a 550.000. La Banca Centrale Europea dice che ci si può attendere per i prossimi mesi una serie di ulteriori, anche se moderati, incrementi nella disoccupazione dell'area euro, che ha toccato, lo ricordo, a luglio il 9,5%. E poi ancora la ripresa sarà graduale, anche se è finita la caduta del PIL dell'area euro, e questo lo dice anche alla luce dei dati pubblicati oggi sugli andamenti delle varie economie, vi arriviamo tra un secondo. Per quello che riguarda invece l'Italia, i BOT scendono ancora, i rendimenti all'asta di oggi, nuovo minimo storico, il rendimento composto è dello 0,38%. I titoli a 12 mesi, rendimento composto dello 0,74%, mentre ci ha messo meno di un'ora Enel a piazzare tutti i 5 miliardi di obbligazioni sul mercato. La richiesta era arrivata a oltre 20 miliardi di euro. Sempre in Italia, il Consiglio di amministrazione dell'Eni ha deciso di attribuire agli azionisti un acconto sul dividendo 2009 di 50 centesimi di euro per azione. Alla data di stacco della cedola del 21 settembre 2009, il pagamento avverrà dal 24 settembre. Trattativa dei metalmeccanici, avete sentito dai nostri GR, rinviata, due le piattaforme, due tavoli diversi. E a questo punto c'è rottura soprattutto con la FIOM, che ha replicato, inizieremo a pensare a forme di protesta, mentre sempre sul fronte italiano, oltre 2.000 gli operai della Fincantieri di Palermo e dell'azienda dell'indotto che hanno sfilato questa mattina in corteo a Palermo per protestare contro l'assenza di investimenti di carichi di lavoro che metterebbero a rischio il futuro della fabbrica. Allora, visto che molti di voi sono sempre interessati ai turisti giapponesi e alle sole che gli vengono rifilate dai nostri lungimiranti ristoratori, non tutti, ci mancherebbe, una notizia che oggi diffonde l'Associazione dei consumatori è di due turisti giapponesi che a Milano questa volta, l'11 dicembre del 2008, hanno pagato in un nightclub per aver bevuto alcuni drink 7.000 euro con due scontrini, 6.700 euro l'uno, 500 euro l'altro. I due giapponesi hanno saldato il conto convinti di aver speso il corrispettivo di 80.000 yen, cioè circa 600 euro, e i due scontrini erano stati messi a distanza a pochi minuti uno dall'altro. Incredibile questa vicenda. E poi dopo, mentre girava per l'Italia, a Torino non è riuscito a usare la carta di credito, si è accorto della truffa, e da lì poi la denuncia all'associazione dei consumatori. Vabbè, speriamo che almeno gli italiani non vengano trattati come in Giappone, come i giapponesi in Italia. Adesso partiamo con il primo tema, molto serio oggi. Il PIL del nostro paese meno 6%, confermato il secondo trimestre dell'anno rispetto al secondo trimestre del 2008, è un dato che non si vedeva dal 1980, perché è da lì che è iniziata la serie storica. Magari ci fosse da prima, scopriremo che si va ancora più indietro. E su questo un paio di commenti subito prima di iniziare con i vari, con le varie schede e con le varie dichiarazioni. Commento è quello del Presidente del Consiglio Berlusconi, che sul PIL italiano ha detto che soltanto la situazione sta migliorando, anche se è ancora molto difficile, siccome molti ascoltatori ci fanno notare diverse dichiarazioni. Allora, non abbiamo avuto problemi a difendere, anzi difendere non è bisogno, a essere d'accordo con il Ministro Tremonti su molte delle dichiarazioni di questi giorni, ecco perché ci permettiamo anche di ricordare, hanno ragione gli ascoltatori, che sia il Presidente del Consiglio, mesi passati, se non ricordo male gennaio, febbraio, diceva ma è un calo del PIL che ti riporta di due anni indietro, non si stava così male nel 2006, beh, adesso siamo al 1980, vediamo un po' di ricordarci come stavamo. E soprattutto io ricordo, senza polemica, che per alcuni mesi il governo ha sostenuto, proprio nella figura del Presidente del Consiglio, che c'era un'enfatizzazione eccessiva di questa crisi dovuta ai media, e questo portava sfiducia, faceva crollare i consumi, diciamo che era una crisi molto mediatica. Mi sembra di vedere dai dati della produzione industriale, dai dati del PIL, che a questo punto diciamo, potranno avere anche qualche responsabilità i media, ma il dato è vero, sono le fabbriche che producono di meno, vendono di meno, gli ordinativi che calano. E tant'è che oggi il Presidente del Consiglio Berlusconi, nella conferenza stampa con il premier spagnolo Zapatero, riconosce che la ripresa non c'è ancora. I governi devono fare il massimo sforzo per diffondere fiducia e ottimismo. Tutti e due siamo in accordo, individuando nel fattore psicologico, nella paura, uno dei principali fattori della crisi finanziaria ed economica. Quanto alla crisi, abbiamo registrato che si è fermata la caduta. Indicando plasticamente cosa succede, pensiamo che ci sia stata la caduta e che oggi si sia in un momento che ancora non ha dato il via alla ripresa, ma contiamo anche per l'attività di tutti i governi che stiamo sempre cercando di coordinare, di dare un forte impulso a questa ripresa, affinché non sia una ripresa lenta, ma sia invece una buona ripresa anche per i tempi. Quindi la caduta c'è stata, avete appena sentito, è finita, la ripresa non si vede ancora, ma la speranza è che sia una ripresa consistente. Vediamo a che punto siamo, come chiedono alcuni ascoltatori del Guado, o meglio sentiamo a che punto siamo del Guado con questa scheda. La conferma che la ripresa sarà lunga e insidiosa è arrivata oggi con il dato sul prodotto interno lordo nel secondo trimestre, sceso del 6% sull'anno prima. Lo stesso risultato dei primi tre mesi dell'anno è il peggiore almeno dall'inizio della serie storica nel 1980. Consolazioni si possono però trovare nel ritmo del rallentamento. Infatti, tra aprile e giugno, la nostra economia è arretrata dello 0,5% rispetto ai tre mesi precedenti. Un dato di gran lunga migliore del meno 2,7% segnato nel primo trimestre sul periodo precedente. Alla flessione del PIL hanno contribuito tutti i settori. Innanzitutto la nostra industria, con il valore aggiunto sceso nel secondo trimestre del 17,7% sull'anno prima. Male anche costruzioni, agricoltura e servizi. Alla luce di questi dati, per fine anno, si prevede un PIL acquisito, ossia quello che si avrà se la variazione nei prossimi due trimestri sarà nulla, pari a meno 5,1%. Un dato, anche se di poco, migliore al meno 5,2% previsto dal governo. Decisamente penalizzante il confronto internazionale. Sia per il trimestre precedente che per l'anno prima, facciamo peggio del complesso dei paesi euro. Non solo, su base trimestrale ci consoliamo solo guardando a Giappone e Regno Unito, mentre fanno meglio Francia, Germania e Stati Uniti. Su base annua solo il Giappone fa peggio di noi, mentre flessioni solo leggermente più contenute rispetto alla nostra per Germania e Regno Unito. Risultati migliori invece da Stati Uniti e Francia. E nel caso specifico Germania meno 5,9, Regno Unito meno 5,5, meno 3,9 gli USA e meno 2,6 la Francia. La Francia si conferma come paese che sta sentendo meno questa crisi economica, perché tengono i consumi interni. Qui abbiamo detto più volte, ci sono politiche in Francia molto molto solide sul welfare, sull'assistenza, sulle madri, sulle giovani madri, sui diritti delle donne che fanno figli. Insomma, un welfare efficiente dimostra che in Francia i consumi tengono. Certo, la Francia è poco ha meno dipendenza dall'export, a differenza di Germania e Italia, e quindi in questo momento risente meno del crollo della domanda mondiale. Come ricordava la nostra scheda, il contributo purtroppo maggiore al dato sul PIL così negativo lo ha dato l'industria, meno 17,7%, una botta vera e propria. Costruzioni meno 6%, agricoltura meno 3,5%, i servizi tengono di più, meno 2,3%. C'è poi un altro dato oggi che riguarda il mese di luglio e la nostra bilancia commerciale. Perché? Perché quasi paradossalmente è migliorata, anche se le esportazioni vanno molto male, perché le importazioni sono andate peggio delle esportazioni. Ecco perché il saldo è positivo di 1 miliardo e 700 milioni di euro. Professor Sdogati, docente di economia internazionale alla Business School del Politecnico di Milano, buonasera. Buonasera a voi tutti. Il dato sull'esportazione la sento un po' basso, Sdogati, se magari riusciamo ad alzare il volume dell'ospite. Dicevo, il dato sulle esportazioni riguarda l'area fuori dall'Europa e abbiamo visto le importazioni calare del 35%, le esportazioni in sostanza del 17%. Tra l'altro le variazioni positive sono verso i paesi del sud-est asiatico. È aumentato il nostro export, più 17%, Corea del Sud più 7%, e invece il nostro export soffre tanto verso la Russia, meno 35%, e verso gli Stati Uniti meno 24%. È la conferma, secondo lei, che quel poco di ripresa che si sta vedendo arriva dall'Asia? Ma io direi che lei ha usato poc'anzi un avverbio importante, che paradossalmente si stanno vedendo dei comportamenti paradossali. Sono particolari perché siamo abituati a ragionare su delle crisi, diciamo così, tradizionali, quindi apparato psicologico di tipo tradizionale. Oggi noi scontiamo l'assenza di una politica del welfare di tipo francese, qui lei faceva riferimento poc'anzi. La domanda interna crolla, la domanda interna non è sostenuta, le importazioni, che sono domanda nostra di beni prodotti da altri, crollano. Questo è il primo problema. Un dato tipico importante è il dato dell'abbigliamento, no? Noi importiamo più abbigliamento ormai. La seconda cosa sicuramente è che il sud-est asiatico è importantissimo. Io ricordo ancora quando ci si divertiva molto a prendersela con la Cina e con gli asiatici, e alcuni di noi assumevano atteggiamenti più cauti. Oggi siamo in questa condizione, ringraziamo il Dio che questo sud-est asiatico tira, e tira in particolare per noi. Sulla Russia cosa dobbiamo dire? Abbiamo una caduta dei loro redditi da petrolio, grosso modo, stesso livello percentuale della caduta della domanda di nostre merci, quindi diciamo un equilibrio sostanziale. Lei vede, oltre che dall'Asia, intanto io devo dire che sono d'accordo con lei, perché insomma abbiamo polemizzato per anni con la Cina, addirittura c'era chi voleva i dazi, qualcuno se li ricorda i dazi? Adesso meno male che i dazi non li mettono i cinesi, sennò staremmo freschi. Meno male che c'è una domanda che arriva dall'Asia, immagino che sia domanda non tanto di prodotti finiti ma di utensili e soprattutto meccanica, quel poco che c'è. Certo che finché non ripartono negli Stati Uniti, perché poi un conto è il valore percentuale, un conto è il valore, è il dato percentuale, un conto è il valore di volume, finché non ripartono negli Stati Uniti, professor Sdogati, qua di export se ne vedrà poco. Io ancora una volta concordo con lei. Allora, il settore che soffre meno di tutti in questo momento è sicuramente la meccanica strumentale e l'elettromeccanica. Paesi in via di sviluppo hanno bisogno di queste cose, di questa nostra competenza, di queste nostre capacità. Sugli Stati Uniti io invito tutti a riflettere attentamente, perché gli Stati Uniti non ripartiranno con la domanda a cui siamo abituati. Sono profondamente convinto che ripartiranno con la domanda nuova, per usare uno slogan, con la domanda di servizi per la sanità e per il benessere. Quindi è importante, sarebbe estremamente importante che i nostri imprenditori, i nostri manager cominciassero a pensare seriamente a una ridirezione della propria specializzazione. Gli Stati Uniti stanno facendo, a mio modo di vedere, un'altra svolta epocale. Passano una nuova definizione di benessere, forse ancora più alta di quella che i francesi hanno già raggiunto e cui lei faceva riferimento. Quindi abbiamo bisogno di riflettere seriamente sul nostro modello di esportazione. Beh, interessante questo, perché veramente se uscirà da questa crisi anche una nuova America con consumi diversi, cioè a parità di consumi, poniamo che siano 100, però su beni diversi, è importante per i nostri imprenditori sapere anche su quali prodotti e con quale valore aggiunto collocarsi. Lei sta in qualche modo lanciando quello che sarà il tema della seconda ora del programma, quando ci occuperemo della riforma sanitaria di Obama, che ieri il presidente americano ha presentato a Senato e Congresso riuniti, e anche da lì appunto potrebbe uscire una nuova America, lei diceva più simile a alla Francia o al Canada, insomma sicuramente con una similitudine più forte con l'Europa. Grazie intanto a Fabio Sdogati, appunto, che insegna economia internazionale al Business School del Politecnico di Milano. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Parliamo subito, anzi tra un minuto, di borsa. Prima un'altra notizia di questa giornata economico-finanziaria, perché è stato avviato il confronto fra le organizzazioni sindacali e datoriali sulle modalità con cui regolare la partecipazione dei lavoratori agli utili d'azienda. Che vuol dire? Vuol dire che si va avanti il ministro Sacconi con la sua proposta, ricordo, proposta bocciata, l'abbiamo fatto sentire più volte dalla Presidente di Confindustria Marcegaglia. Ha detto invece il Ministro Sacconi oggi, al termine del tavolo avviato presso lo stesso Ministero, che le parti sono tutte disponibili al negoziato, con accenti che però non nascondono preoccupazioni, ma Sacconi resta ottimista. Questo incontro avvia un negoziato diretto tra le parti sociali per produrre un avviso comune. Fra due mesi faremo una verifica insieme, confidando che per allora le parti abbiano concluso l'avviso comune. Chiederemo al Parlamento, che valuterà nella sua sovranità, di attendere l'esito dell'avviso comune. Questa è materia per la quale, se si produrrà un'intesa tra le parti, gli istituti partecipativi, le forme partecipative non resteranno ragionevolmente sulla carta, ma avranno quella spinta che potrà essere garantita proprio dall'accordo tra le parti stesse. Quindi ciò che può essere oggi la richiesta di due mesi di attesa al Parlamento, in realtà può poi diventare un motivo di accelerazione non solo del lavoro parlamentare, ma soprattutto di ciò che può accadere nei fatti nelle imprese del paese. Le parti si sono date tutte disponibili a questo negoziato, con accenti ovviamente che prefigurano preoccupazioni, obiettivi. Così il ministro welfare Maurizio Sacconi. Adesso la borsa, vedo già che mi avete pizzicato. No, dico perché alcuni di voi scrivono, però anche i giornalisti non è che facciano molte autocritiche. Io ho sempre chiesto scusa quando ho detto cavolate, forse non abbastanza, questo può essere, e quando ci sono stati degli errori. Ed ecco un altro episodio, perché inizio programma ho detto che la borsa di Milano dai minimi di marzo, dell'8 marzo, è risalita di più del 50%. Un ascoltatore che ha fatto i calcoli, che confermiamo, scrive: veramente il rialzo dall'8 marzo è di circa l'82%. Bello, bello essere controllati e pizzicati, ci fa andare avanti con maggiore attenzione. Allora la borsa. Più 0,2% alla fine il FTSE MIB, quindi riduce i guadagni. Parigi chiude invariata, Francoforte più 0,3%, Londra meno 0,3%, l'America guadagna uno 0,3%. Ci rigiochiamo sti numeri oggi, sono tutti 0,3%. Allora, come sempre con Radio Colli sulle 24 ore, Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera a tutti. Dunque, adesso parleremo di Opel, Magna e le decisioni di Angela Merkel, però vorrei partire proprio da Fiat, perché ha avuto una giornata abbastanza altalenante, nonostante vi sia molto in movimento sul settore auto. Per esempio sul quotidiano tedesco Handelsblatt, il direttore finanziario di BMW, Friedrich Eichner, spero che si pronunci in questo modo, ha detto che vuole rafforzare la collaborazione con il gruppo Peugeot Citroën. Ma il settore come si è mosso in Europa? Sì, c'è stata molta attenzione sin dalle prime battute di questa mattina, proprio perché appunto, come hai detto tu, c'era questa intervista sull'Handelsblatt. Peraltro anche le Fiat questa mattina erano partite positive e poi purtroppo hanno rallentato, hanno chiuso in terreno negativo, meno 0,59%, ma seguendo un po' le orme del settore, anche a Parigi ad esempio le Peugeot hanno rallentato il passo e hanno chiuso in calo dello 0,28%. D'altra parte la guardia rimane alta, ovviamente si ha la sensazione che qualcosa nel settore continui ad accadere e che ci saranno magari ulteriori processi di consolidamento. Ancora Luxottica perde l'1,80, Prismian meno 1,7, Autogrill meno 1,4, Unicredito meno 1, Popolare di Milano meno 0,7 come Geox, Finmeccanica meno 0,6 come Fiat, Banco Popolare meno 0,5%. Chi guadagna? Ansaldo STS più 3,4 e Mediaset più 3%. Ansaldo e Mediaset. Guarda, su Ansaldo non ci sono stati notizie particolari, nelle ultime sedute i titoli si muovono con grande nervosismo e comunque amplificano quasi sempre la performance del mercato. Per quanto riguarda Mediaset, oggi c'è stato un grande interesse un po' su tutto il comparto dei media, si sono risvegliati numerosi titoli, ad esempio sono andate molto bene anche le RCS, che invece erano rimaste abbastanza in ombra nelle ultime sedute. Sono circolate degli studi circa appunto il settore dell'editoria non italiano ma europeo, di cui comunque hanno beneficiato anche i titoli italiani. Ancora Seat Pagine Gialle, anche oggi continua il suo rally più 5,2%, praticamente ha fatto un più 26% solo la settimana scorsa, no? Guarda, da due giorni si è risvegliata Seat Pagine Gialle e tra l'altro voglio dire l'ultima settimana, sì, cioè questa nell'ultima settimana, non quella scorsa, i titoli all'improvviso due giorni fa si sono risvegliati nell'ultima ora di contrattazione, ieri hanno continuato a correre, peraltro tra scambi molto consistenti. Diciamo che la motivazione si trova all'estero, le IEL, che sono praticamente la stessa società che edita gli elenchi telefonici inglese, negli ultimi mesi ha registrato una performance particolarmente brillante, ha triplicato infatti il proprio valore di borsa. In genere appunto i titoli titoli delle pagine gialle, visto che sono molto simili tra di loro, tendono a muoversi insieme. Le Seattle erano rimaste al palo e stanno recuperando terreno. In aggiunta va detto che a fine mese l'amministratore delegato Alberto Cappellini, peraltro nuovo, non ha ancora incontrato la comunità finanziaria, andrà a Londra per incontrare investitori e appunto gestori ed analisti, e quindi c'è grande attesa per questo, diciamo, primo incontro del manager. Evidentemente c'è chi scommette che possano emergere notizie positive e quindi acquista le azioni. Ancora, oltre a Seat, visto che siamo sui titoli più sottili, migliore in assoluto, Gabetti Property Solutions, più 15%, Media Contech, più 12%, RCS, più 8% e poco altro. Pirelli, sulle risparmi non convertibili, più 5%, il peggior titolo, Telefonica, meno 4,2%, Le Camfin, meno 2,7%, e B-Team, meno 4,2%. Torniamo a quelli più grossi. E occupiamoci anche dei bancari. Unipol più 3%, Fondiaria più 1,6%, Generali più 1,3%, e poi il resto è poco mosso. UbiBanca più 0,1%, la Popolare di Milano perde lo 0,7%, Eni più 0,3%, Enel più 0,3% anch'essa, come Saipem, Esnam, Rete Gas. Campari più 2,3%, si brinda? Sì, oggi infatti i titoli hanno letteralmente brindato, nel senso che una casa d'affari, Exam BNP Paribas, ha rivisto al rialzo la raccomandazione, ha espresso un giudizio particolarmente positivo sui titoli e evidentemente la borsa ha reagito positivamente. Quindi non è la previsione del weekend, degli spritz, che porta in alto il titolo, no? Perché con alcune spiegazioni che leggiamo sul perché dei titoli si può arrivare anche a quello, e anche alcune grandi banche d'affari potrebbero dare delle raccomandazioni sulla base di principi del genere, viste le cose un po' così delle volte irreali che leggiamo. Mondadori più 1,8, Fondiaria più 1,6, Alleanza più 1,4, l'abbiamo detto, A2A più 0,90%. Tenaris. Sì, Tenaris è da più sedute che si mette in evidenza. Oggi ci sono più motivazioni. Innanzitutto è emerso che negli Stati Uniti è stato introdotto un dazio sulle importazioni cinesi di tubi d'acciaio, e questo dovrebbe favorire proprio invece la società con base a Bergamo. In secondo luogo si può dire che comunque Tenaris è... Dalmine. Così, sì. Così ti rompo le scatole, dimmi, vai avanti. In secondo luogo Tenaris è ben comprata comunque da più sedute, visto che nei giorni scorsi, esattamente l'8 settembre, i vertici della società si sono recati a Londra, hanno incontrato gli investitori istituzionali, hanno fornito indicazioni particolarmente positive per i mesi a venire. Peraltro proprio oggi gli analisti di Cassa Lombarda hanno emesso una raccomandazione di acquisto sulle azioni. Ultimo titolo, ST Microelectronics, che insomma è un po' di sedute, che continua a crescere, siamo a 6,6 euro più 1,9%. Sì, ST questa volta è andato bene, ma insieme un po' a tutto il settore tecnologico europeo a risvegliare gli acquisti sul comparto è stata l'indicazione di Texas Instrument. Il gruppo americano ha infatti rivisto al rialzo le stime per i mesi a venire e per fine anno. Grazie e buon lavoro a te e ai colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore. Grazie Eleonora Micheli. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo un SMS che dice: attenzione, non è il PIL italiano uguale dagli anni 80, è il calo peggiore dal 1980. Sì, l'abbiamo detto. Chiedo Venia se non si è capito. Il calo registrato oggi, meno 6% rispetto al secondo trimestre del 2008, non si vedeva dal 1980. Non è il peggiore dagli anni 80, è che dal 1980 inizia la serie storica. Se fosse iniziata nel 70, forse era il peggiore dal 70, non lo potremmo mai sapere. È il peggiore da quando esiste come calo la serie statistica storica. È ovvio che non voglia dire che siamo un PIL uguale a quello degli anni 80, dopodiché, se vogliamo dire a tutto, bisognerebbe andare a vedere qual è il valore reale, cioè al netto dell'inflazione, a quanto ammonta questo PIL. Comunque, lo lasciamo agli addetti ai lavori. Noi invece adesso parliamo della saga tedesca e quindi di Opel. La vendita a questo punto è decisa, nel senso che l'ha annunciato Angela Merkel alle 15-18 minuti per la precisione, e quindi General Motors venderà a Magna una quota del 55% di Opel, mantenendo il 35% della casa automobilistica, il restante 10% andrà ai lavoratori. Il closing vero e proprio arriverà tra pochi mesi, anzi entro poche settimane, la parte, diciamo, l'intesa finale, tutta la parte poi tecnica arriverà, il closing appunto nel giro di pochi mesi. E poi altre dichiarazioni che sono appena arrivate, perché il presidente della fiduciaria, anzi il board della società fiduciaria che controlla attualmente la Opel, ha approvato la decisione, questo era scontato. E John Smith, che è il capo negoziatore della General Motors, che ha gestito la trattativa per voce, per conto degli americani, ha detto: per noi la vendita al consorzio Magna Sberbank, che è la parte russa, è la soluzione migliore. Poco fa il presidente della Fiat Montezemolo ha detto: ho saputo della vendita di Opel, noi avevamo fatto la nostra offerta, ha detto: noi andiamo avanti, abbiamo tanto da fare con Chrysler, è una sfida importante che vogliamo vincere. Beda Romano, corrispondente sulle 24 ore dalla Germania, buonasera. Buonasera. Allora, vabbè, i dettagli ne abbiamo parlato a lungo di questa vicenda dal punto di vista industriale. L'intera però operazione sarà un po' intoppata anche sul fronte politico. Prima domanda: come mai è stato smentito chi riteneva che la Germania non avrebbe mai chiuso questa partita prima delle elezioni? Ma credo che ci sia stato, allora, cerchiamo di non fare il processo alle intenzioni, perché questa vicenda si presta a fare tantissimi processi alle intenzioni, limitiamoci a guardare ai fatti. Ho l'impressione che alla signora Merkel convenisse fare tutto il possibile perché potesse fare l'annuncio che ha fatto oggi prima del voto, ecco, e non dopo il voto, da un punto di vista di pura analisi politica. Questa vicenda va avanti ormai da quasi 9 mesi più o meno, c'è stata un'accelerazione in primavera, il mese di maggio è stato un mese in cui in Germania si è praticamente parlato solo di Opel e del destino di Opel, e la signora Merkel aveva messo sul piatto la propria credibilità, aveva detto che la soluzione migliore per Opel, la filiale europea di General Motors, era di venderla a Magna. Questa soluzione aveva il favore dei socialdemocratici, aveva il favore dei democristiani, aveva il favore delle varie regioni coinvolte dalla vicenda e soprattutto aveva il favore dei sindacati. La signora Merkel da maggio a oggi ha continuato a sostenere la tesi di Magna. Se questa vicenda fosse continuata nel tempo, per la signora Merkel sarebbe stata un problema di immagine fondamentalmente. Quindi, se mi limito all'analisi politica, ho l'impressione che la signora Merkel, annunciando questa tortuosa e sofferta decisione a 2 settimane dal voto politico, ha tolto di mezzo una mina vagante che aveva sulla testa da un po' di tempo a questa parte. E che probabilmente sarebbe stata utilizzata dall'opposizione in queste 2 settimane che precedono il voto tedesco. Possiamo dire a questo punto, visto che tu ricordavi che di saga si tratta, perché da 9 mesi che ne parliamo con vicende alternanti, che adesso questa vicenda è chiusa, cioè se la comprano gli austriaci, i canadesi con la partecipazione russa e tutti sono contenti, non arrivano gli italiani, i sindacati non hanno nulla da dire, non ci sono neanche altre offerte, resta così la situazione della Opel, oppure adesso è il momento poi di andare a far tornare inutile la Opel stessa? No, io rimarrei cauto sulla soluzione finale. Eccoci. Di questa vicenda rimarrei cauto per vari motivi. In parte anche per i motivi che ho appena segnalato prima. Le elezioni hanno probabilmente giocato in un modo o nell'altro, forse hanno accelerato l'annuncio di oggi, non lo sappiamo e forse non lo sapremo mai. Però è evidente che questa soluzione è ancora una soluzione tutta da chiudere, tutta da verificare. prima di tutto da chiudere, perché la casa madre americana ha detto sì, abbiamo deciso di vendere a Magna, ma a un certo numero di condizioni, e queste condizioni devono essere risolte da qui a qualche settimana, a qualche mese. Primo aspetto. Secondo aspetto, non sappiamo se questa soluzione sia la migliore da un punto di vista puramente economico industriale, sì. E industriale. Quindi vi sono due ostacoli fondamentalmente, il primo è contrattuale e il secondo è industriale, e non sappiamo se questi due ostacoli verranno superati nel prossimo futuro. Vedremo, ecco perché alcuni hanno parlato di similitudine con la vicenda dell'Italia. Io ricordo che l'Italia era comunque controllata dal Tesoro in parte, però insomma non è stata un'operazione, un blitzkrieg, un'operazione lampo quella del, diciamo, tedesca su Opel. Se la stanno trascinando, vediamo se con questa ultimo capitolo la vicenda sarà veramente chiusa. Grazie a Beda Romano in collegamento con noi da Francoforte. Sono 18:10 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Dopo aver parlato del dato sul PIL italiano, ripeto, mai così male dal 1980, quando esiste la serie storica, però nel secondo trimestre dell'anno è rallentata la caduta, meno 0,5 contro un meno 2,7 nel primo trimestre rispetto all'ultimo del 2008, dopo aver toccato anche il tema della borsa e della partecipazione dei dipendenti agli utili aziendali, il primo tavolo di lavoro oggi con il ministro Sacconi. Alcune notizie in breve e poi passiamo al piano americano, al piano di Barack Obama, che tanti problemi e anche un po' di calo di consenso sta creando al presidente americano. Non interessa chiaramente l'aspetto economico, che devo dire in questo caso è poi l'aspetto to cure. Prima di tutto però alcune notizie in breve appena arrivate. Eh sì, perché volete ancora, alcuni di voi vogliono sapere qual è stato il commento della Banca Centrale Europea ai dati oggi diffusi sul PIL europeo. Ha detto la BCE, ha ridetto, devo dire, questi dati segnalano la fine della caduta del PIL dell'area euro, ma la ripresa sarà graduale. Hanno anche chiesto ai paesi membri dell'euro di tornare a correggere l'andamento del debito. Il rapporto debito-PIL deve essere aggiustato di almeno un punto percentuale del PIL, che a casa nostra vorrebbe dire 14-15 miliardi di euro. E poi sempre la Banca Centrale Europea ha previsto che nei prossimi mesi vi sarà un ulteriore, anche se moderato, incremento della disoccupazione. Ancora, volete sapere quali componenti nel nostro PIL nel secondo trimestre sono calati di più? Lo ridiciamo. Il dato più brutto sia sull'industria, il valore aggiunto è diminuito del 17,7%, poi le costruzioni meno 6%, l'agricoltura meno 3,5%, i servizi meno 2,3%, però particolarmente negativo, avete ragione nel scriverlo, il settore commercio, alberghi e trasporti, che si attesta a un meno 5,7%. Gli altri paesi, dicevamo, peggio dell'Italia, anno su anno, cioè secondo trimestre 2009 sul secondo trimestre 2008, ha fatto solo il Giappone, meno 6,5%. La Germania è vicinissima al dato italiano, meno 5,9%, Gran Bretagna meno 5,5%, meno 3,9% l'America, meno 2,6% la Francia, che appunto è un'eccezione in questo panorama. Bilancia commerciale, ripetiamo, è migliorata a luglio, quella fuori dall'Europa, perché le importazioni in Italia sono calate di quasi il doppio rispetto alle esportazioni, meno 35% le esportazioni, meno 35% le importazioni, meno 17% le nostre esportazioni fuori dall'Europa, con però segni più per quello che riguarda tutto il sud-est asiatico, e questa è una buona notizia, più 17% complessivamente, più 7% in Corea del Sud, mentre pesante il dato sulla Russia, meno 35% delle nostre esportazioni, e anche Stati Uniti, meno 24%. E allora restiamo in tema di Stati Uniti, perché appunto ieri, quando era notte inoltrata in Italia, Barack Obama ha presentato al Congresso, quindi alle Camere riunite diremmo noi, il suo piano di riforma sanitaria. È un piano che prevede di portare a copertura sanitaria quei 47 milioni di americani che ne sono ancora privi. Uno dice, non sono tantissimi. No, è l'equivalente della Spagna, e comunque in una popolazione di 250 milioni di abitanti siamo a un quinto, in una condizione in cui migliaia di americani devono rinunciare ogni settimana alla loro copertura sanitaria perché non riescono a pagare le rate dell'assicurazione o perché appunto hanno problemi direttamente col posto di lavoro. Il costo di questa operazione, confermo, ha detto Barack Obama, sarà di 900 miliardi di dollari in 10 anni, quindi non 9.000 miliardi, ma 900 miliardi di dollari in 10 anni. It will provide more security and stability to those who have health insurance. Forniremo più stabilità e sicurezza a coloro che hanno già l'assicurazione sanitaria e forniremo assistenza a quanti invece ne sono sprovvisti. Con la riforma verranno rallentati i costi sanitari per le famiglie, le imprese e il governo. Niente in questo piano costringerà le persone o i datori di lavoro a cambiare il proprio piano assicurativo se vogliono mantenere quello che hanno già. Se fate parte delle decine di americani che non hanno assicurazione sanitaria, questo piano offrirà una gamma di scelte di qualità e sostenibili dal punto di vista economico. La riforma costerà 900 miliardi di dollari in 10 anni, ma non alzerà di un solo centesimo il deficit pubblico. È meno di quanto siano costate le guerre in Iraq e Afghanistan e inferiore ai tagli fiscali per i ricchi fatti approvare dalla precedente amministrazione. Tutti qui sappiamo cosa succederebbe se non venisse fatto nulla. Il nostro deficit salirebbe, ancora più famiglie andrebbero sul lastrico e ancora più imprese chiuderebbero. È un piano che ha dentro di sé molte delle idee di chi è qui oggi, sia dei democratici che dei repubblicani. E io nelle prossime settimane continuerò a cercare un terreno comune e non perderò tempo con chi ha fatto calcoli secondo cui converrebbe affossare questo piano invece che migliorarlo. Non accetterò lo status quo come soluzione. Non questa volta. Non ora. And I will not accept the status quo as a solution. Not this time. Not now. Dicevamo discorso molto ispirato, quello di Barack Obama, anche riferimento a Ted Kennedy, l'apertura verso l'opposizione, quindi verso i repubblicani, ma la fermezza nel dire, l'avete appena sentito, se ci sono proposte le valuteremo, ma non accetteremo chi punta semplicemente a far slittare magari al prossimo mandato, al prossimo presidente, la riforma sanitaria. Confermo 900 miliardi di dollari, visto che ci scrivete, in 10 anni, e confermo anche che questa cifra, lo ha detto lo stesso presidente americano, è una cifra inferiore non solo a quanto speso per la guerra in Iraq e in Afghanistan, ma anche ai vantaggi che hanno avuto gli americani ricchi dalla riforma fiscale di Bush, quella famosa che sulla base della cosiddetta curva di Laffer puntava a ridurre le tasse, convinta che poi i ricchi avrebbero speso di più. Barack Obama ha un approccio completamente diverso. E 18 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, ultima parte di Focus Economia. Abbiamo sentito quindi Barack Obama in uno dei passaggi principali del suo intervento, oltre 45 minuti, tenuto al Congresso, con poi la parte relativa a Ted Kennedy, visto che c'era tutta la famiglia presente. Mario Platero, corrispondente sulle 24 ore dagli Stati Uniti, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, Mario, le cifre economiche le abbiamo ricordate. Chiedono gli ascoltatori, bello questo piano, anche perché sono 47 milioni di americani privi di copertura sanitaria, più, da quello che abbiamo capito, migliaia che ogni settimana ne escono perché non riescono a pagare le rate, o perché la casa vale meno, o perché hanno perso il lavoro. Chiedono però gli ascoltatori, ma chi paga? Barack Obama ha detto, l'abbiamo sentito, non ci sarà un centesimo di dollari in più di deficit. Com'è possibile? Beh, perché nella struttura ipotizzata dal Presidente e direi dai piani in discussione anche a Camera e Senato, l'idea è che a pagare siano poi i cittadini, siano i contribuenti, nel senso che la realtà delle cose è che molti di questi 47 milioni di non assicurati sono ricchi. Non sono ricchi, ma sono non assicurati per scelta. E sono delle persone che hanno dei redditi, direi, medi, medio-bassi, medio-alti, ma comunque fuori dalla soglia di povertà, e decidono perché sono giovani, perché sentono di star bene, perché non vogliono spendere i soldi, perché sanno che comunque se vanno all'emergency room, quindi al pronto soccorso, nessuno li caccia via, perché sanno che a livello statale ci sono degli ospedali che poi li prendono comunque e gli fanno delle cure se ne hanno bisogno, decidono di non fare, quando dico statale intendo degli stati, non a livello federale, decidono di non fare questa assicurazione. Allora questo si traduce in un costo indiretto per quelli che invece l'assicurazione la sottoscrivono, perché è chiaro che è una gran quantità di gente, poi comunque ha bisogno di usufruire di un qualche servizio sanitario, poi il costo su chi ricade? Beh, ricade poi su quelli che invece l'assicurazione la pagano. Allora, l'idea qual è? È che, è una questione molto tecnica, posso accennarla, ma comunque ci sono i parametri che prevedono il 300%, 400%, 500%, sul reddito di povertà. Diciamo che il reddito di povertà è di 15.000 dollari all'anno o 18. Allora, a quel punto, se uno ha tre volte tanto come famiglia di quattro persone quel reddito, quindi il 300%, è obbligato a sottoscrivere un'assicurazione. Se non la sottoscrive è fuori legge, e se non la sottoscrive e viene pizzicato deve pagare una multa di 3.800 dollari all'anno al fisco americano. E quindi queste persone a un certo punto dovranno in qualche modo sottoscrivere queste polizze. Ecco, Mario Platero, si calcola che in effetti di questi 47 milioni di americani senza copertura sanitaria, quanti siano quelli che lo fanno per scelta, cioè redditi sopra i 50.000 dollari l'anno, che decidono di non spendere, tanto non è obbligatorio, e poi se stanno male, come tu raccontavi, in qualche modo la si sfanga, però diciamo... Una classificazione statistica al millimetro... di come sono diciamo delle categorie all'interno di questa fascia, credo che non la conoscano neanche i super addetti ai lavori, perché in questi 47 milioni c'è un po' di tutto, ci sono anche quelli che non pagano le tasse e quindi sfuggono in qualche modo al fisco, ci sono anche gli immigrati illegali che sono da soli 12 milioni, i quali pesano comunque sulla struttura sanitaria, o meglio, in aggiunta ai 47 ci sono 12 milioni di immigrati illegali i quali non sono assicurati, i quali anche loro si rivolgono poi a questi ospedali. Però quello che voglio dire è che la struttura così come è stata organizzata è che la previsione di finanziamento, a parte quelli che veramente poveri, diciamo. Perché come tu stesso hai detto, Obama dice questo deve avere un effetto fiscale zero. Esatto. E tu dici, ma com'è possibile, se aggiungiamo 47 milioni di persone sul gobbone, qualcuno pagherà, pantalone, certo, tasse profonde, ecco. Allora, che cosa ha ipotizzato per esempio Baucus, il senatore Max Baucus, che è il capo della Commissione Finanza, che ha il piano poi direi più quello che sta andando più forte, su cui probabilmente si troverà il compromesso, che si caricheranno su base annuale compagnie farmaceutiche, produttori di attrezzature mediche e in qualche modo anche compagnie di assicurazione, ma soprattutto farmaceutiche e produttori, con una tassa di circa 4, 5, 6 miliardi di dollari all'anno per il settore farmaceutico e di 2, 3 miliardi di dollari all'anno per i produttori di attrezzature mediche. Ed ecco che quindi recuperano 6, 7, 8 miliardi da questa nuova tassa che viene imposta a coloro che operano nel settore farmaceutico. Dice, ma perché vengono penalizzati? Beh sì, da una parte vengono penalizzati, dall'altra però, ed è questa la storia non detta completamente, anche se Obama poi in effetti ieri notte nel discorso l'ha accennata, E cioè che le compagnie di assicurazione, le compagnie farmaceutiche, i produttori di questi strumenti medici, alla fine per loro il fatto di avere 47 milioni di persone in più sul loro ruolino di potenziali, fra virgolette, sarà un vantaggio. Ecco Mario, io volevo capire una cosa, perché se tu ci stai spiegando che in sostanza è vero che pagheranno parte di questi costi in più le compagnie farmaceutiche, i produttori di attrezzature mediche, ma poi si troveranno con una platea più ampia di assicurati, quindi poi alla fine potrebbero anche riuscire a trovare un beneficio. E allora verrebbe anche meno l'obiezione di queste lobby fortissime delle farmaceutiche in America che stanno remando contro Obama. A me sembra di vedere però che in America, al di là del calcolo strettamente economico, ci sia un problema pregiudiziale, ideologico. E cioè si dice, e ieri Barack Obama l'ha detto chiaramente, ha detto attenzione, quando Truman fece la prima riforma, quando poi la fece Johnson nel 65, il Medicare per dare l'assicurazione agli anziani e ai disabili, c'era un'opinione pubblica contraria, c'erano le lobby contrarie, il congresso però la votò e fece bene. Il problema non è quasi culturale, cioè si teme che in questo modo, obbligando gli americani a farsi un'assicurazione, ci sia un inizio di sanità pubblica che, a differenza che in Canada o in Europa, in America è considerata quasi una bestemmia. Beh, non esattamente. Cioè, diciamo che il problema che gli americani hanno e che le lobby fortissime farmaceutiche e assicurative avevano è sulla cosiddetta public option. La public option è un programma di cui Obama tra l'altro ieri sera ha parlato dicendo che secondo lui sarà solo il 5% di tutto l'output complessivo della sanità e che quindi non deve preoccupare assolutamente nessuno, perché poi ognuno potrà fare quello che vuole, ma la public option è la creazione del cosiddetto sistema sanitario pubblico, per cui tu hai il tagliando, vai e non paghi niente perché ci sono degli ospedali, dei medici, delle corsie, delle medicine che sono pagati completamente ed esclusivamente dallo Stato. Originariamente Barack Obama voleva che questa public option, questa opzione pubblica, questo sistema sanitario nazionale potesse presentarsi sul mercato in concorrenza con le compagnie di assicurazione e offrire al grande pubblico americano l'opzione: scegli di venire con lo Stato o scegli di stare con l'assicurazione privata. Certo. Ecco, questa cosa ha terrorizzato le compagnie di assicurazione, le quali improvvisamente all'atto pratico vedere migrare decine di milioni di persone verso lo Stato, che sicuramente caricava di meno. E allora, per evitare che questo succedesse, si è organizzata questa straordinaria campagna. E allora, da un punto di vista di comunicazione pubblica, quando i repubblicani vicini al settore farmaceutico e sanitario esplodono con degli slogan tipo commissioni della morte, commissioni di burocrati che decidono se vivi o se muori, se ti danno la medicina o non se la danno, l'americano chiaramente si spaventa e non è che si eccita se dall'altra parte dice ma no, stai tranquillo perché c'è... Ecco, e a questo punto, siccome ho forse 30 secondi, vorrei capire in 30, no, dice il tecnico nemmeno 30, me li piglio, in 30 secondi, secondo te ce la farà Obama, sì o no, e quanto vogliono sapere gli ascoltatori, quanto paghi tu di assicurazione sanitaria? Dacci un'idea, non vogliamo farti i conti in tasca. Allora, io credo che Obama ce la farà rinunciando all'opzione pubblica, sì. Cercherà un compromesso e nell'interesse di tutti arrivare a una soluzione e credo che alla fine ce la farà. Due, il costo comunque aumenterà, le promesse sappiamo si fanno, è più difficile mantenerle, ma sarà forse più contenuto di quello che temono i pessimisti. Tre, ti confesso che avendo un'assicurazione in America che mi ha aumentata a ritmi del 25-30% all'anno negli ultimi anni, credo che peggio di così non si possa andare, quindi proviamo questa opzione e vediamo che succede. Però quanto paghi non ce lo vuoi dire, ed è un tuo... Ma quanto costano le assicurazioni? Le assicurazioni vanno dai 6 ai 15, addirittura per una famiglia di 4-5 persone ai $20,000 l'anno, quindi circa $2,000 al mese, $1,500 al mese. Non che grosso modo equivale poi alle ritenute che fanno su stipendi elevati magari anche in Italia. Grazie, buon lavoro Mario Pratero in collegamento con noi da New York. Da Sebastiano Barisoni veramente è tutto, l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Focus Economia.